9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un buon martedì 22 giugno e questa lettera trascorreremo ponendoci un quesito: come chiamarsi quando si è nel principale partito dell'opposizione, rilanciato dalla manifestazione che si è tenuta la fine settimana, la manifestazione nazionale del PD, in cui Bersani ha lanciato l'antimanovra, per così dire, da parte del Partito Democratico. E un attore, Fabrizio Gifuni, intervenendo a... attaccato il suo intervento con un tradizionalissimo, si direbbe, compagni e compagni, se non che questo compagni e compagni ha fatto discutere e fa discutere. Allora volevo iniziare facendoci ripercorrere, chiaro che per quelli della mia generazione, un po' più vicino ai 50 che ai 40, è un po' più facile per chi è più giovane, però io sono cresciuto in un'Italia in quei primi anni 70, più e più volte a settimana nella mia Torino, io vivevo a Torino Mirafiori, più e più volte alla settimana migliaia e migliaia di studenti e lavoratori facevano dei cortei, una certa impressionante potenza nella città. E si cantavano talvolta cose più tradizionali, per così dire, cantavano loro, si cantavano, io non cantavo queste, però cantavano con voce tonante talvolta cose più tradizionali della sinistra, in cui compagne altro che, e compagne altro che se c'era, però erano più tradizionali, come questa. Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso il fiore, il petto c'è fiorito, una fede c'è nata in cuore. Noi non siamo più nelle officine, dentro terra, nei campi, in mare. La plebe sempre all'opera chila, senza ideale in cui sperare. Su diciamo che nelle generazioni successive, e cioè nella mia generazione per intenderci, in realtà più dell'internazionale che riguardava gli iscritti al Partito Comunista, quindi la tradizione organizzata della grande forza nazionale che nel dopoguerra della lotta armata poi era diventata con Togliatti e dopo Togliatti fino a Berlinguer, insomma una forza solidamente incardinata nella democrazia parlamentare italiana, beh, c'erano altri filoni che per la mia generazione erano filoni che andavano per la maggiore, per chi stava a sinistra, molto più della tradizione organizzata del Partito Comunista Italiano. E quindi diciamo che di quel filone, in particolare un motivo, quello di Paolo Pietrangeli, era diventato insomma il mainstream molto più di quello della tradizionale internazionale. Compagni dai campi e dalle officine, naturalmente diciamo questa era la versione un pochino più barricadera, per così dire, ma attenzione, perché poi nella mia generazione ci sono state versioni ancora parecchio più barricadere di questa, e vi dirò che per la mia adolescenza nel mio quartiere operaio e nel liceo dove c'era tutta la fila dell'alta borghesia torinese, partecipare come osservatore molto perplesso a questi cortei di migliaia di persone in cui non tanto la vecchia tradizione dell'internazionale, delle bandiere rosse, del servizio d'ordine del PC, ma prevalevano invece nemmeno la contessa di Paolo Pietrangeli, ma prevalevano invece le canzoni del canzoniere di lotta continua, oppure l'inno di potere operaio, che non so quanti di voi ricordino, quello che faceva Stato e padroni, e nell'inno di potere operaio c'erano strofe tipo quelle che promettevano esplicitamente ai riformisti che fanno i delatori: insieme ai padroni noi vi faremo fuori. E sentire cantare migliaia di ragazzi della mia generazione queste robe, e con un bel fazzoletto sulla faccia e talvolta le pistole che giravano, diciamo, mi aprì molto gli occhi su come funzionava davvero la tradizione. E questa non aveva più niente a che fare ovviamente con la sinistra storica, democratica, organizzata, eppure nella mia generazione era molto forte. Ecco, per ricordare anche quello, questa particolare declinazione della parola compagni, come vedete le sto distinguendo, perché non faccio di tutta erba un fascio, e comunque tento di parlarne seriamente, sia pure evocandole attraverso canzoni, ho scelto un brano di una canzone che appartiene al canzone di lotta continua, questa è del 71, del 72 se non mi ricordo male, e questa si intitolava Liberare tutti, si riferiva ai compagni carcerati. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto. Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori, insieme ai padroni noi li faremo fuori. Forci padroni, non bastano le galere per tenerci chiusi, facciam vedere ai nostri sfruttatori che per ognuno dentro mille lottano fuori. Ecco qua, dunque, attenzione a chi fosse in ascolto e non avesse capito: no, non c'è stato un colpo di Stato, non è che la radio di Confindustria è stata improvvisamente occupata da un manipolo di guardie rosse. Però ogni tanto questa che è stata storia importante dell'Italia per decenni, e poi storia arroventata per un paio di decenni italiani, perché di qua sono nati poi alcuni filoni che hanno purtroppo tragicamente occupato le cronache italiane, mi sembra molto giusto tentare di richiamare le diverse declinazioni che la parola compagni ha avuto nella storia del secondo dopoguerra italiano, non solo per la grande tradizione del Partito Comunista, di una grande forza democratica dell'opposizione italiana, dalle cui evoluzioni poi nasce anche il PD di oggi, non da solo però, ma ricordare anche queste altre particolari declinazioni che cantavano molti della mia generazione, in cui si diceva ai Crumiri che gli aspettava la mitraglia, e ai riformisti che facevano i delatori che sarebbero stati fatti fuori come i padroni. E poi non voglio dire, ma insomma, non sono state solo talvolta, grazie al cielo, ma troppe volte parole. Allora, questa introduzione per vedere di parlare seriamente poi di che cosa è avvenuto quando Fabrizio Gifuni ha detto compagni e compagni, alcuni giovani iscritti al Partito Democratico, Luca Candiano, uno dei firmatari, Veronica Chirra, Matteo Cinalli, Sante Calefati, Marino Ceci, poco più che ventenni, hanno scritto una lettera pubblica dicendo: noi non accettiamo sta parola compagni, perché rende poco merito al fatto che il PD è una cosa nuova, non è l'evoluzione della sinistra storica italiana. E purtroppo con Bersani, hanno detto loro, questa invece è l'aria che si sente, tanto è vero che poi gli interventi nelle assemblee nazionali, nelle manifestazioni nazionali, iniziano con compagni e compagni. Reazione tra le sopra le righe, forse. A me non interessa la polemica, mi interessa però capire come rispetto a questa storia, insieme a voi, bisogna chiamarsi, secondo voi, se si sta nel PD e si ha un grande progetto di un'opposizione seria come il PD. Quindi chiamate anche voi 800 24 00 24. Ripeto, non è un piccolo problema, molti stanno mandando gli sms: occupatevi di cose serie. No, l'identità, di cui il nome è un simbolo insieme alla bandiera, insieme a il programma, è una cosa fondante quando si è una grande forza di opposizione. Quindi non credo affatto che sia un dibattito, una pinzellacchera, perché tra politici decidere se chiamarsi compagni, amici, sodali oppure casigliani a seconda della cricca, visto che sulle case è qua che va avanti tutto, come diceva Totò, vi ricordate quando diceva Voto Antonio, casigliani, ecco, forse Totò come sempre ci dava una dritta su come la politica poteva finire in Italia. Allora, ora basta, ho parlato troppo, abbiamo sentito la musica, d'ora in poi cose serie, e quindi abbiamo con noi, per instradare seriamente il dibattito, abbiamo innanzitutto Emanuele Macaluso, ex parlamentare del PC, ex direttore dell'Unità, ora direttore della Regione del Socialismo, una figura veramente luminosa e per me sempre fonte di qualcosa di cui imparare, della lunga tradizione della sinistra italiana e del Partito Comunista Italiano. Buongiorno Macaluso. Buongiorno. E poi abbiamo Stefano Ceccanti, costituzionalista, senatore del PD ed espressione di quella tradizione di cattolicesimo democratico che nel PD è cofondatore a pieno titolo di merito insieme alla tradizione della sinistra, e col quale ci interrogheremo sul senso di questa obiezione dei giovani. Ecco, comincerei da Emanuele Macaluso, però. Lei, se dovesse dare una risposta alla domanda di come chiamarsi nel PD, che cosa direbbe? Ma per come è stato fatto il PD, io non ho aderito a questo partito, anzi sono stato e sono molto critico, perché queste sono appunto nodi che poi vanno venendo al pettine, come si dice. Perché se non ci si chiarisce bene le idee, poi davanti vengono i problemi. Ora, dal momento che hanno messo insieme, diciamo così, quelli che venivano dai DS, cioè che venivano dal Partito Comunista, dall'area socialista, e poi insieme alla Margherita, che era un pezzo della Democrazia Cristiana, nient'altro che questo, e qualche altro gruppetto, diciamo così, quello che era con Rutelli, eccetera, e è chiaro che, diciamo, questo problema, che può sembrare minore, ma io sono d'accordo che non è minore, perché attiene appunto anche a una identità di un partito che si definisce con tante cose, non certo non solo con questo, ma soprattutto con quello che fa, ma in quello che fa c'è anche questa questione. Ora, io ritengo che questa insurrezione che c'è stata ieri, l'ho detto anche al mio vecchio amico Ceccanti, che si è amareggiato per un mio intervento sul web della rivista, in cui diceva appunto che a me mi sembra veramente inaudita questa reazione è inaudita, e cioè si vuole impedire a una parte importante di questo partito, che riconosce valida una storia, di chiamarsi appunto compagni e compagni. Io gli ho detto: dal momento che avete fatto questo insieme, che è un insieme ancora, non è un partito, è un insieme, va bene, allora consentite che quelli che si vogliono chiamare compagni si chiamano compagni, quelli che si vogliono chiamare, come dice Ceccanti, democratiche e democratici, che bisognerebbe cominciare il discorso democratiche e democratici, come se democratiche e democratici fossero quelle iscritte solo quelle al partito democratico, perché democratiche e democratici sono una molto di più, va bene, comunque volete fare cosa? Ma allora avete voluto questo insieme, se c'è un giovane, perché poi questo giovane attore, Gifuni, Fabrizio Gifuni, che ha parlato, è un giovane, mica è della mia generazione, è un ragazzo, anche lui, che ritiene appunto che può stare nel Partito Democratico e chiamarsi, no, invece bisogna appellarsi non so a quale regole, a quali statuti, a quali principi, per cui non si può nemmeno chiamare compagni. A me mi sembra francamente una una cosa assurda che mette in evidenza un modo di essere, che è quello del centralismo democratico, o meno democratico, perché tutti invece non debbono pronunciare quella parola, quindi proprio un centralismo staliniano, diciamo così, e nello stesso tempo chiamarsi democratiche e democratiche. A me mi sembra francamente il massimo della contraddizione. Ceccanti, che dice? Perché l'osservazione di Macaluso è, innanzitutto, la chiarezza non è stata fatta a distanza di tempo, e tanto è vero che ogni volta si tocca con mano che ci sono dei problemi su cosa sia davvero il PD. Però perché negare diritto a chi è tanta parte, o comunque una parte rilevante del PD, di chi ha cooperato alla nascita del PD, ci si riconosce oggi, e però continua a riconoscere validità all'evoluzione di un importante filone storico della sinistra, di chiamare poi i colleghi di partito come vuole, cioè nella coerenza di quella tradizione? Obiezione di Ceccante. Ma dunque, anzitutto io dico questo: Macaluso dal suo punto di vista ha una certa coerenza interna, nel senso che lui non ha aderito al Partito Democratico. Le sue obiezioni sono coerenti dal punto di vista di chi non ha aderito al Partito Democratico. Se ognuno si chiama con il nome della sua tradizione perché ritiene quella tradizione del tutto vitale, non ha senso fare un partito, ha senso fare una coalizione. Cioè, se uno si vuol chiamare compagno, uno si vuol chiamare amico, e si identifica del tutto in ciò e non vede la necessità di costruire insieme una nuova storia comune, che senso ha fare un partito? Tanto varrebbe tornare al PDS, al PPI, gli uni si chiamano compagni, gli altri amici si coalizzano. Se fanno un partito, non per ragioni statutarie, ma per ragioni logiche, si danno insieme un nome. Questo nome è il nome democratico e democratici, è il nome del partito che ci siamo dati. Questo mi sembra il punto. Cioè, o si condivide l'idea che le tradizioni precedenti non sono autosufficienti, hanno bisogno di un nuovo inizio insieme, e allora si chiamano insieme con un unico nome, oppure non si condivide e si fa una coalizione. Mi sembra che non, tertium non datur. E però, rispetto al suo terzo non datur, resta il fatto che poi moltissime volte, più degli interventi dei dirigenti o di coloro che poi danno il loro sostegno per la loro testimonianza intellettuale oppure nel mondo dell'arte, dello spettacolo, come era nel caso di Fabrizio Giruli, iniziano con compagni e compagni. E ecco, quindi vorrà allora, dire quindi, che c'è una questione. Sì, la questione è questa, che si è perso lo smalto e la volontà di costruire una sintesi nuova. Siccome non si vede la sintesi nuova, come nell'esodo, si ritorna alle cipolle d'Egitto, cioè ognuno ritiene normale chiamarsi con il luogo da cui proviene. Ma perché non si è perseguita la strada, si è persa la strada di costruire un'identità nuova? Questo è il punto, cioè un effetto di questa. Si sono evocate nostalgie, e queste nostalgie hanno, a partire insomma dalla lezione di Bersani, e anche in precedenza, Bersani ha coltivato per la sua elezione questo tipo di nostalgie, parlando di storia identificata fondamentalmente con la storia della componente maggioritaria che è arrivata a questo percorso. E se ne perché l'obiezione di cui hanno parlato alcuni, anche appunto cattolici democratici, è che Bersani parla sempre di storia, cioè quella, non storie al plurale, di quelli che hanno dato vita insieme da tradizioni diverse il PD, è questo il punto. Ma è evidente, perché se noi partiamo dal presupposto che le tradizioni precedenti siano ancora vive e vitali, noi che partito facciamo? Facciamo un partito con la testa rivolta all'indietro, ecco. Sì, no, facciamo un partito che ha una maggioranza chiara e fissa, che è quella che viene da quella tradizione, e ci sono delle minoranze ospitali, cioè siamo nella CGL storica in cui c'era la componente comunista maggioritaria e poi c'era la comunista socialista, la componente socialista minoritaria, cioè questo è, ma allora non valeva la pena di farlo il partito, valeva la pena di restare alla coalizione, questo è il punto politico. Quindi diciamo, noi abbiamo visto, cioè se ci avessero detto 2 anni fa, non che una persona andava lì e parlava di compagni, ma che una persona andava lì e parlava di compagni, cioè finalmente ce lo possiamo dire, e riceveva l'applauso scrosciante, e questo 2 anni fa probabilmente non sarebbe capitato, perché appunto 2 anni fa eravamo in una fase diversa e insistevamo sugli elementi di novità di questa proposta. E comunque alla fine siamo ricondotti lì, cioè quando non si coltiva l'identità nuova riemerge quello che c'era prima, ma andrebbe coltivata l'identità nuova. Ecco, e siccome, come vedete, ci sono problemi di fondo in questo dibattito, e siccome io devo dire non sono d'accordo con gli sms che mi arrivano dicendo ma che cavolo di finto problema, ma dove lo vedete il PD forza seria dell'opposizione, scusate, Non tocca a me dire chi è serio all'opposizione e tantomeno chi è serio al governo, perché mi sembra che questo giudicatelo voi, ciascuno con la vostra testa a casa. Sta di fatto che il PD è la forza maggiore dell'opposizione, e io penso che chiunque gli neghi questo fatto forse ha dei problemi, dovrebbe andare dall'oculista, comunque la pensi politicamente. Quindi occuparsi delle tradizioni che convergono ancora separate in casa, oppure alcune delle quali si sono illuse che fosse nata una cosa nuova e poi a ogni problema si riscopre che la cosa nuova non è ancora nata perché c'è la testa rivolta all'indietro, anzi c'è una cultura maggioritaria, come ha appena detto adesso Stefano Ceccanti, e minoranze ospitate. Beh, tutto questo per capire poi alla prova del 9 che cosa davvero questa forza dell'opposizione potrà fare governando il paese, a me sembra, a dirvi la verità, centrale, molto più di tante chiacchiere sui particolari nuovi degli affitti delle case, oppure del nuovo ministro che vedo appassiona molto, nuovo ministro nominato, nuovo ministro si commenta da solo, stiamo a casa, ministro inutile, punto. Questa è la mia opinione. Eccoci qua, prendiamo lo spunto da questo intervento di cui sentiamo le parole iniziali di Fabrizio Gifuni, attore, un bravissimo attore, a prescindere da come la pensiate su come politicamente poi lui la pensa. Lui è andato all'amministrazione del PD e ha parlato così. Vedete compagni e compagne, era tanto tempo che volevo dire questa cosa, compagni e compagne. Vedete, questi tagli alla cultura sono i più odiosi, i più incommentabili tagli che siano stati mai fatti. Queste erano le sue parole, poi naturalmente c'è un tacco molto duro. Io nel merito non credo affatto che il sostegno alla cultura di un paese debba venire dai trasferimenti pubblici, ma questa è la mia opinione, io non mi riconosco nello statalismo per la cultura. Ovviamente molti attori, i più anzi degli attori impegnati italiani, sostengono che la posizione è diversa. E comunque quello che ha suscitato polemica è stato l'attacco del discorso, cioè compagni e compagni, e alcuni giovani del PD, Luca Candiano, altri, Veronica Chirra, Matteo Cinale, Santa Calefati e Massimo Ceci, tra gli altri, hanno detto questa storia non va bene, perché da che c'è Bersani segretario, la rietta è quella di essere tornati all'evoluzione del filone maggioritario, cioè quello del Partito Comunista nelle sue diverse declinazioni successive. Il PD lo abbiamo fatto per un'altra cosa. È il filone dei cattolici democratici, cattolici di sinistra, che hanno cooperato alla nascita del PD, si interroga su come ci ha spiegato Stefano Ceccanti. Che cosa replica Emanuele Macaluso a quello che gli ha controobiettato Ceccanti? Ma io francamente resto un po' stupito da un fatto. Chi è che usa compagni e compagni guarda indietro? Ma perché guarda indietro e non può guardare avanti? Molto avanti, più avanti di quello che pensa Ceccanti e altri. Ma, e cioè là, questo fatto che parlare e dire compagni e compagni significa guardare indietro, guardare al PC, guardare al socialismo, no, al socialismo italiano, al PC eccetera, bisogna sempre guardarci perché è la storia e bisogna guardarla con occhio critico, come una storia, quindi come tutta la storia bisogna sempre tenerne conto e tenerne conto criticamente, indubbiamente chi è in grado, chi è capace di farlo. Ma ti può guardare avanti, molto avanti, avendo l'idea che chi sta insieme per un progetto politico, di cambiamento, di mutamento, eccetera, possa chiamarsi compagni e compagni, pensare, ritengono che questo sia un modo, diciamo così, migliore per stare insieme, un modo più fraterno, più dell'essere, segnala forse un essere insieme con valori e principi comuni, più di quanto democratici e democratici che sono tutti l'Italia, più della metà, certo, la quasi totalità degli italiani si ritiene essere democratici e democratici. Quindi io non vedo perché, ecco, pensare che chi usa questo guarda indietro e gli altri usano avanti, io penso che sia esattamente il contrario. Io penso che si può parlare con queste parole, guardare molto ma molto avanti, anche Insomma, giustamente Emanuele Macaluso dice attenzione, perché qui non è pezzi da museo, nella storia queste sono leve che restano potentissime, un'idea di solidarietà fraterna che nella parola compagno e compagno nella storia c'è stata, ma guarda il futuro, anzi molti pensano che proprio nella crisi di 3 anni ci sia una riproposizione assoluta di cose che nei 10 anni dopo, nei 20 anni dopo la caduta del muro sembrano trascurati. Non sto parlando a titolo personale, ma sarebbe non fare un servizio alla verità riconoscere che nelle parti avanzate del mondo, come quello meno avanzate, ci sono centinaia di milioni di persone che la pensano così. Ecco, forse Macaluso ci restituisce anche a un dibattito politico che non è tanto quello di particolari, statutari, le forme eccetera. La questione è che se di questa forma di solidarietà fraterna che c'è storicamente nella parola compagni e compagni, chi appartiene alle altre tradizioni che hanno avuto convergenza nel PD dice no, questa cosa è ostativa, e questo è un punto che resta secondo me irrisolto e che spiega anche perché poi alcuni come Emanuele Macaluso hanno detto sentite, io non ho capito bene, quindi per il momento non ci vengo, vedete un po', perché mi pare che ci sono alcuni punti di fondo non sciolti. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori, cominciamo con Orazio da Messina. Orazio, come la pensa? Compagni e compagni o mai più compagni? No, altro che compagni e compagni. Io sono simmetricamente d'accordo, parola per parola, con quello che ha detto l'onorevole Macaluso. Tant'è vero che io, a chi la pensa come me, mi rivolgo con l'appellativo di camerata. E quando parlo di camerata non penso certamente né a Fini, né a Berlusconi, né a tutti gli altri ex-N, che, gli ex-MSI, devo dire, che oggi popolano il nostro Parlamento e il nostro governo. Quindi compagni, d'accordo, perché esprime quel che ha detto l'onorevole Macaluso, positivo dal suo punto di vista, e camerati, perché dal mio punto di vista esprime tutto quanto di meglio la storia di questo paese ha saputo dare in 150 anni di maledetta unità. Grazie Orazio, lei dice le tradizioni non sono pezzi del passato ma sono credi politici che vanno ancora avanti. Naturalmente la sua è molto diversa e distinta da quell'altra. Giuseppe dalla provincia di Bologna, come la pensa lei? Buongiorno, io sono per mantenere il termine compagno, ma non il PD. Il PD è un'altra cosa, il PD è una cosa nuova e di centrodestra che non interessa. Di centrodestra, lei dice? Di centrodestra, sì. Io sono stato a Torino, a Mirafiori, e le posso dire che nell'ambito operaio il signor Fassino, quinta colonna nel PC, era certamente un uomo di destra ed è certamente. Cioè lei dice quinta colonna nel senso storico che ha questo termine, cioè era praticamente troppo vicino ai padroni e all'azienda, questo? Questo lo sa, probabilmente lo sa anche lei che è di Torino. Quindi posso dire, e Veltroni, cosa possiamo dire di Veltroni? Che cosa ha di sinistra Veltroni? Allora, nel momento in cui tolgono dalla parola del partito anche sinistra, evidentemente questi hanno finalmente raggiunto lo scopo di non avere niente più a che fare con la storia della sinistra, sia come personaggi. Chiarissimo, sia Giuseppe, come... ha detto con chiarezza quello che pensa, quindi la sinistra è altrove, più a sinistra del PD. Sentiamo Gianni da Lecce. Sì, buongiorno. Senta, io sono d'accordo con l'amico di Bologna comunque, perché io come vecchio, diciamo, comunista, vecchio trasparenti, che ho 56 anni, tutto quello che sta facendo questo governo, intercettazioni, scuole, magistratura, tanti anni fa mi chiedo cosa avremmo fatto. Le canzoni che avete trasmesso hanno risvegliato vecchi ricordi di lotta, di aggregazione, di sentirci, di vederci, di litigare anche, ma per costruire qualcosa di buono. Io vecchio comunista, lo ripeto, non so più cosa fare, a chi votare, perché questi sanno fare solo cattiva opposizione. Lei dice forme nuove ma senza troppo nervo. Esatto. Ecco. Sono diventati dei vivi televisivi. Io sono d'accordo con i compagni e compagni. Ero contento prima quando ci chiamavamo compagni e compagni. Non adesso, gli dica il signor Macaluso, che ha dimenticato la storia. No, Macaluso, guardi, non ha bisogno di che io lo difenda, ma Macaluso è proprio uno di quelli che la storia non l'ha dimenticata e continua anzi a ricordarla, non solo la storia, ma a tentare anche una coerente declinazione politica. Macaluso non ha aderito al PD e chiunque lega la ragione del socialismo sa perché c'è una tradizione di evoluzione che va verso il socialismo riformista solidamente incardinata in quella che è stata la grande storia del Partito Comunista, di cui è stato un dirigente storico, e Emanuele Macaluso continua su quello a battere e a ribattere con chi la pensa come lui. E ripeto, non ha bisogno di me che lo difenda, ma guardi, proprio Emanuele Macaluso non ha dimenticato nulla, anzi ce ne fossero di quelli che non dimenticano come Macaluso in tutte le tradizioni politiche italiane. Sentiamo ancora Angelo dalla provincia di Brescia. Buongiorno. Buongiorno. Ma io credo che fondare un soggetto nuovo ci penserà Dio quando creerà un'altra volta il mondo, allora partiremo di nuovo. Le tradizioni non si possono cancellare. Io capisco c'è Canti che dice che la cultura maggioritaria eccetera probabilmente non farà bene, probabilmente può darsi. Credo che la cultura minoritaria sarebbe anche peggio comunque se si dovesse dare spazio a quello. Io credo che il tentativo di spostare il Partito Democratico su questo modo di ragionare serva soltanto a personaggi senza né arte né parte che non riescono a costruire nient'altro che polemiche. Si sta polemizzando addirittura sul compagno Montaigne, siamo all'assurdo. Non credo che andranno da alcuna parte con questo metodo di lavoro. Grazie. Grazie a lei, però nel maggioritario poi alla fine, nella fine della Prima Repubblica dei partiti nuovi sono nati. Se pensiamo che quello che ha la storia più antica presente in Parlamento italiano attualmente è la Lega, non è che è successo solo a sinistra come è noto, quindi di fronte a questo come, che risposta si dà? Intanto adesso la risposta che ci diamo è quella del minuto obbligatorio di cui dobbiamo essere grati, dell'informazione sulla circolazione stradale. Eccoci tornati in studio, molti ascoltatori dicono ma com'è tutta questa cosa oggi di Giannino per il PD, la sinistra, sentite come parla di Macaluso. Cari ascoltatori, la mia impressione è che chi conduce una trasmissione debba parlare con rispetto assoluto delle cose che sono state importanti della storia, a prescindere se le abbia votate o meno. Non so se vi è chiaro che ogni tanto esiste anche uno spazio di rispetto oggettivo per ciò che è nella storia rilevante e non solo di tribalismo contrapposto in cui basta citare il nome di qualcuno che non ci sta simpatico in un certo modo per cui lo si condanna alla gogna mediatica. Questa è l'informazione che prevale per tanti versi nel nostro paese ed è quella che dichiaratamente, come mi sentite fare sull'economia, a me non piace. No, io non ho mai votato per la forza dell'onorevole Macaluso, ho votato per altre forze. Detto questo, chiunque nega, secondo me, facendo sto mestiere, l'importanza che ha avuto nella storia italiana e che ha ancora la tradizione della sinistra storica, organizzata, poi evoluta e poi confluita nel PD, eccetera, eccetera, o è un mestatore o è un povero scemo, ma è scemo lui, non è che se la deve prendere con me dicendo cos'è tutta questa importanza da dare al PD, a Macaluso, a se chiamarsi compagni e compagne. Sì, la storia, il presente e il futuro politico è fatto di chi non se la dimentica, la storia. Questa è la mia modestissima opinione. E ora sentiamo come la pensa Riccardo Barenghi, Iena della Stampa al volo su questa questione, compagni e compagni oppure mai più compagni, che dice la Iena? Ma la Iena dice che la Iena è sconcertata, c'è un ritorno audio, comunque trovo una discussione assolutamente fuori dal mondo, fuori dal tempo, cioè che senso ha? Il Partito Democratico dovrebbe concentrarsi su quello che vuole essere, che vuole fare, se c'ha qualcosa da essere, se c'ha qualcosa da fare. Questa discussione su compagni, compagni, amici, comici, camici, non so come definirla, francamente mi sembra proprio senza senso. Ipersensibilità dei giovani che hanno obiettato a Gifuni? Ma sì, ma non è questo il punto è che non sanno chi sono, non sono nati, diciamo così, per dirla con D'Alema, un'amalgama non riuscita, ma è un eufemismo perché mi pare che proprio come partito per ora non abbia mai funzionato, hanno preso una sconfitta dopo l'altra, adesso che facciamo, che fanno, si mettono a discutere se come chiamarsi, ma si mettessero a discutere su cosa sono o cosa dovrebbero essere e cosa fare, perché francamente chi se ne frega se si chiamano compagni o non compagni, perché non mi pare comunque, in ogni caso, con tutto quello che è successo dall'89 in poi, mi sembra sarebbe, diciamo così, una foglietta di fico un po' ridicola, perché dovrebbero chiamarsi compagni, non hanno nulla di quella tradizione, non sto dicendo che bisognava quindi tenere il comunismo perché quella cosa era finita, per cui tenersi solo, diciamo, un simbolo, allora tanto vale ritirare fuori le bandiere rosse, la falce e il martello, il nome comunista o socialista o quello che è e ricominciare da lì, ma mi sembra anche quello un po' anacronistico, quindi proprio la discussione nominalistica la trovo ridicola, invece sarebbe interessante una discussione sulle cose da fare per capire davvero. Ecco, la Iena ha dato la sua zampata e lo restituiamo la sua vacanza perché l'abbiamo sottratto rispetto alla vacanza. C'è Canti, come vede Macaluso da una parte, Barenghi dall'altra, gli ascoltatori che un po' rimpiangono il passato dall'altra, ma qui sembra quasi che almeno oggi a sentire chi abbiamo preso, che non è un campione statistico, ma insomma ma queste voci sembrano che prevalga in loro l'opinione, l'impressione, qui sto PD ancora non ci siamo per niente, l'amalgama non riuscita come diceva D'Alema. Di fronte a questo invece chi crede nel PD però tocca con mano che ancora questa è la situazione, che pensa come lei? Io penso che appunto dovevamo avere il coraggio di andare avanti sul progetto che avevamo immaginato. Ora, appunto, ripeto, Macaluso dal suo punto di vista ha una coerenza, lui non ha aderito al PD perché non riteneva, riteneva che ci fosse ancora una vitalità di una determinata tradizione storica che quindi meritasse un partito a parte. Ma appunto il PD si è fatto esattamente perché non si è condiviso quel tipo di analisi. Quanto poi al ragionamento che fa Barenghi, che ha una sua parte di verità, perché comunque anche lui fa un ragionamento sulla inutilizzabilità, invece sulla rottura rispetto alle tradizioni. Io segnalo una cosa, che io ho conosciuto raramente una persona esperta di programmi riformisti, nel senso proprio con numeri, cifre, proposte, qual era Ermanno Gorrieri, già capo partigiano e ministro del lavoro. Lui pose questo problema nel 98 al congresso fondativo dei DS, non del PD, dicendo che se si voleva passare dal PDS ai DS bisognava mettere in discussione che potessero essere usate come parole d'ordine per il tutto quelle che erano di una parte. Gorrieri poi profetizzava l'avvento del PD, cioè la vedeva come una parte, come un passaggio intermedio verso il PD. Questo perché i simboli, tra i simboli e le proposte c'è una coerenza stretta. Quando io voglio proporre qualcosa di nuovo non posso che ricorrere a delle simbologie nuove, che non vuol dire che io azzero le culture politiche preesistenti, perché come le chiese si facevano con materiale dei templi precedenti avviene sempre un po' così, però sono costruzioni che a un certo punto hanno una loro discontinuità. Questo mi sembra il dato, un dato a cui il PD oggi rischia di sfuggire, ma sfuggendo allontana la possibilità di trovare una prospettiva maggioritaria del paese. E delle due l'una: o noi riteniamo le tradizioni politiche ancora vitali, allora dobbiamo smontare il PD e fare una coalizione simile all'Ulivo prima maniera, o viceversa riteniamo che in questo paese ci sia bisogno di una proposta politica nuova, allora dobbiamo riprendere con forza la proposta innovativa del PD. Ecco, e mi pare di capire, siccome l'interrogativo è aperto, come vedete la discussione non era nominale, per molti è una discussione che testimonia purtroppo l'arretratezza, il fatto che il progetto politico del PD, vere svolte significative, fondanti, capaci di essere vissute come condivise dai più di coloro poi che lo votano e si guardano, non solo da coloro che lo dirigono, mancano ancora. Ed era un po' questo quello a cui volevo arrivare oggi. Oggi si vota a Pomigliano, per me quella è una svolta storica, se davvero prevalgono i sì nettamente e i lavoratori condividono con i sindacati e insieme alle imprese la ragione di produrre di più per stare nel mondo globalizzato e per avere poi più salario disponibile. E per molti non è così, ma io sono tra quelli che pensano per esempio che il vertice del PD è stato imbarazzato da sta vicenda, non si capiva bene se diceva sì, se diceva no, si guardava dall'altra parte perché c'è una storia che dice no e però non si ha il coraggio di dire no. E allora sapete che c'è, io spero che stravinca il sì oggi, eppure regalo a chi è in ascolto un pezzo di questa sana bandiera rossa. A domani, linea giornale radio, grazie regia Carmelo Lauricella, Alessandro Marco Tulli, linea GR, ma qualche secondo ancora di questa canzone che da questa radio non è facile sentire. In punto.